ora so che il tuo cuore mi sente, perché sono parte di te, del tuo amore profondo. Ora che il tuo sguardo è su di me, tu mi attiri a te, mi cerchi, mi trovi. Ora che mi accorgo di te, della tua presenza, non posso che dirti: respiro te, la tua presenza, avvolgimi della tua pace. Come neve, posa su di me la tua tenerezza. Accoglimi come un'offerta, sostienimi nella debolezza. Come sole rischiara le mie tenebre. Ora so che da solo sono, perché tu sei parte di me, ovunque io vada. Ora che il tuo spirito soffia su di me, mi fai testimone di te, come sale, come luce. Ora che la tua presenza è in me, con gioia per sempre, non posso che dirti: respiro te, la tua presenza, avvolgimi della tua pace. Come neve, posa su di me la tua tenerezza. Accoglimi come un'offerta, sostienimi nella debolezza. Come sole rischiara le mie tenebre. Come neve, posa su di me la tua tenerezza. Come sole rischiara le mie tenebre.